later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, fabbrica di polli, apparentemente, è il drammaturgo tedesco Georg Büchner. K e Drago contemplano la caldaia centrale, ovvero sia il cervello dello stesso Büchner. No, è un cervello, Drago, è chiaramente un cervello. Il cervello però funziona anche bene come riscaldamento centrale. E per forza, Büchner aveva il tifo. Ah. Con la sua febbre poteva illuminare tutta Darmstadt se solo gli avessero piantato una spina nel culo. Bella immagine. La cosa pazzesca, Drago, è che Büchner, morto a 24 anni... È morto. Aveva anche avuto tempo per studiare medicina ed era un grande esperto di anatomia. Quindi? E quindi lui saprebbe cosa fare col suo cervello se se lo trovasse davanti. Sì. Noi invece siamo qui impalati davanti al cospetto di questo povero organo divorato dalla febbre, come Zoolander davanti al computer. Sì, però mi sa che la febbre faceva solo del gran bene a Büchner, no? Ma certo, Drago, lo spingeva a scrivere continuamente in preda a una specie di delirio. Prova a immaginarti. È da lì che uscivano i suoi capolavori, dal delirio della febbre pre-espressionista. Gli veniva lo Sturm und Drang e frasi come... Guardino i progressi della civiltà! Tutto progredisce, un cavallo, una scimmia, un uccello, una canaglia. La scimmia è già un soldato, il gradino più basso della specie umana. Non è ancora molto, ma può migliorare. E questo cos'è? Questo è il Wojciech, forse l'opera più famosa di Büchner. Sì, ma non è Wojciech, scusa. Domande che ci siamo sempre posti. Perché ogni tanto vediamo scritto Wojciech e ogni tanto Wojciech? Perché sebbene il titolo originale uscì come Wojciech, nelle opere complete del 1879 l'editore lo cambiò in Wojciech, lo stesso nome usato poi dal compositore Alban Berg per l'omonima opera musicale. Ecco. Vabbè, quindi per restare fedeli a Büchner noi possiamo continuare a chiamarlo Wojciech. Sì, poi in fondo chi se ne frega, ma comunque... Chi era Wojciech nelle intenzioni di Büchner? Wojciech, umile soldato vessato dai superiori e tradito dalla moglie, è un soggetto soziale debole, subalterno, perdente, ma è lontanissimo dalla tipologia del povero e dell'umile della drammaturgia passata. Non ha la furbizia e la capacità di arrangiarsi dei servi della commedia, ma non ha nemmeno la invisibilità dell'uomo del popolo del dramma borghese. Wojciech è sfigato vero e autentico, e suo autore si è divertito tanto di dare a lui bastonate in testa, metaforiche e non, comprese corna stracorna di moglie con caporal maggiore, tanto che poi alla fine Wojciech uccide moglie e fa bene di farlo. Sterbe doch, du blöde Hur! Zeig dein Talent, Darmstadt Boogie. Zeig dein Talent, zeig dein Talent, Darmstadt Boogie. Zeig dein Talent, zeig dein Talent, zeig dein Talent, zeig dein Talent, zeig dein Talent, Darmstadt Boogie. Zeig dein Talent. La fabbrica di polli. Polastri, finalmente oggi una buona notizia, eh? Oh, Polli, sbattimento, che bello vederti così felice e rilassato. Eh sì, novità, eh. Beh, c'è anche il motivo, eh. Sono appena stato al Corriere, sì? E ho spedito tutti i documenti in Brasile, quelli per farvi dei coccoletti qui, qui in fabbrica. Sì, hai visto, Polli? Quindi, alla fine, con santa pazienza ce l'hai fatta. Tutto risolto, vedi? Non devi andare sempre in sbattimento per forza. Puoi anche affrontare le cose con più serenità e alla fine... No, avete ragione. Oggi è una giornata veramente speciale, eh. Vedi? Sì, e poi oggi sono tranquillo, Ho messo i documenti nelle mani del Corriere e sono tranquillissimo, perché sei sicuro che in 48 ore i documenti sono là in Brasile. Ma cos'è sto rumore? Aiuto! No, ma cos'è? Uè. Sono Trailer Demon! Ma no! È in Invece sì! Riecco i tuoi patetici documenti per il Brasile. Tiè! Ma no, ma cosa vuol dire sta roba? I documenti? Vuol dire che Mailer Demon ti ha fatto visita. E allora? Ho capito, ma i documenti dove sono? I cocoriti, il Brasile, la nave. Riprova e forse sarai più fortunato. Ma se invece sei perseguitato dalla sfiga, allora rivedrai me, Mailer Demon! Ti intercetterò ovunque e non avrai scampo, perché io sono Mailer Demon! E cocoriti? Insider Trading. Finalmente. If you're tired of waiting. Insider Trading. Tutte le intercettazioni telefoniche che avete sempre sognato di ascoltare. Get your Insider Trading. Insider Trading. E sente come suona sta canzone un poco nuova. Chi la prova, chi la prova, chi la sente che gli piace, è bello sentire la musica che ti entra nel cuore e ti esce dal cuore. Saturday night chicken, Saturday, tu sei bianca di borotalco. Fai bella per il palco, sei graziosa quanto basta, con le piume nuove sulla testa per la festa. Saturday night chicken, Saturday, come away night chicken, come away. Vabbè, capo, ma se adesso Mailer Demon esiste anche nella realtà e comincia pure a rompere le scatole, vorrà mica dire che fra un po' sbucherà fuori anche Error 404. Sono Error 404, quello che cercavi qui non c'è più. E non so, anche Bad Command. Sono Bad Command, hai appena digitato una cosa che non esiste. E perfino il buffering. Stai calmo, ragazzo, mordi il freno, io sono il buffering. Devi aspettare, devi stare calmo. Ma Kappa, ma... Kappa, Kappa, hai la clessidra del computer che gira negli occhi. Kappa. Che cosa succederà adesso? Il mondo si sta davvero preparando a ospitare le epiche sfide che vedranno opposti i nuovi supereroi telematici? Dovete pazientare soltanto fino a domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo inevitabile allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.